I wanna be free. Di cosa stiamo parlando? È un concetto, è un'idea che stiamo abbandonando. Concretamente ci perdiamo nell'astratto. Se la libertà ci incontra, male neghiamo il contatto. D'altro canto non mi abbatto per ste cose. Ho la grinta da lottatore impiantata nel cuore. Mo, se l'oppressione che c'è attorno qui la fa da padrone, libero di opporre a questa situazione. Oh, io voglio vivere, se vivere qua vuol dire esprimere la libertà oltre ogni limite. Se io voglio vivere, ma vivere qua è come rispettare il limite della libertà. Volontà che ti sovrasta, picchia forte dentro il petto, botte sulla tua carcassa. Voglia che devasta, la libertà è nel cuore come dice il proverbio. Al cuore non si comanda, yo. Carta che ti passa libera la nota. Se noti la passione considera che ti infuoca. Musica, libertà, il rapporto torna ancora. Ora per ora, libero il tempo, ora come ora. Il mondo ha fame, quindi moci che mi ingoia. La fame ti ingloba e dopo un po' ti ignora. Perché il business si muove liberamente, quindi fuori dal giro, libero nella mente. Oh, sogno libertà, cerco libertà. Voglio essere libero e non è l'età. Mi vanno strette le regole che imponete. Non riesco a condividere le idee che avete. Sogno libertà, cerco libertà. Voglio essere libero e non è l'età. Mi vanno strette le regole che imponete. Io non riesco a condividere le idee che avete. Voglio vivere senza preoccupazioni, sì. Libero dai problemi, esercitare mille professioni, sperimentare mille sensazioni, sentirmi libero dal peso di mille generazioni. Eh sì, sì. Liberarmi dal sistema che ci controlla a fare le cose non per dovere ma perché ne ho voglia. Strumentalizzano tutto e ne sono stufo. Stufo di ogni privazione, stanco di ogni abuso, sì. Devo riuscire a vivere la vita a pieno, però non mi è possibile se mi mettete un freno. Lo so, il tempo va veloce, ma è proprio per questo che voglio sentirmi libero pure senza un pretesto. Libero dagli schemi, libero dai preconcetti, libero dall'età, che poi se ci rifletti i limiti, siamo noi che ce li creiamo. Se una cosa è semplice e spiegabilmente la complichiamo. Oh, sogno libertà, cerco libertà. Voglio essere libero e non è l'età. Mi vanno strette le regole che imponete. Non riesco a condividere le idee che avete. Sogno libertà, cerco libertà. Voglio essere libero e non è l'età. Mi vanno strette le regole che imponete. Io non riesco a condividere le idee che avete. Libero e non è l'età. Mi vanno strette le regole che imponete. Non riesco a condividere le idee che avete. Sogno libertà, cerco libertà. Voglio essere libero e non è l'età. Mi vanno strette le regole che imponete. Io non riesco a condividere le idee che avete. Forse non si vive solo in base a teoremi. Guarda me, io vivo a modo mio. E non nego che questo comporti dei problemi, ma voglio risolverli a modo mio. Forse non sarò grande secondo i tuoi schemi. Infatti cerco di diventarlo a modo mio. Tu, senza quei valori temi. Io, per sentirmi sicuro non ho bisogno di credere in un Dio.